nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 16 maggio il sole in regione è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.34. La luna è crescente e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. Più di 400 pagine di storia, tecniche di coltivazione e vinificazione, arte, filosofia intorno al pignolo. Le ha scritte un irlandese friulano di adozione appassionato di vitigni autoctoni, protagonista dell'apertura di questa puntata. A seguire la rubrica del bio dedicata all'ecologia in serra, un investimento i cui costi si compensano in pochi anni grazie a produzione e qualità. Parleremo poi di processi di vinificazione e nell'orto di coltivazione del pomodoro. È il frico il re della rubrica dedicata ai prodotti tipici, mentre per la ricetta ci sarà una proposta originale di putizza al dragoncello. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Ben Lido, l'irlandese di formazione economista, 12 anni in Friuli, appassionato di pignolo, tanto da dedicare a questo vitigno autoctono friulano 5 anni di studi e un libro, anche piuttosto imponente, che va dalla filosofia all'arte, allo studio scientifico, naturalmente, e in campo di questa antica varietà tipica. Il libro si chiama Coltivare l'invisibile. Perché questo titolo? È nato da un'idea che è sviluppata dal sito web che gestisco e scrivo e vado in giro parlando degli autoctoni. Il sito si chiama The Native Grapes, in inglese vitigni autoctoni. Essendo qua in Friuli, pensavo in 2015 dovrei fare qualcosa per il mio paese adottivo. Sentendo come un friulano adottivo, ho fatto una scelta. Ho scelto pignolo. Ma che cosa ha di così affascinante per Ben Lido il pignolo? 5 anni fa, soltanto il fatto che era sconosciuto, ma poi pian piano è diventato un'altra cosa. Non avevo l'intenzione di scrivere un libro di 432 pagine, di fare tutto che ho fatto, semplicemente l'idea di incontrare questi produttori e poi imparare da loro in vigna e poi in cantina che significa per loro. Nel caso del pignolo, è partito da 15 cantine, oggi però queste cantine sono cresciute. Perché c'è interesse per questo vino? Secondo me tanti hanno seguito un po' la notorietà di due o tre produttori che hanno cresciuto non solo la pianta ma il nome, il riconoscimento, ma poi ho scoperto un'altra cosa che è molto collegato alla cultura. Il fatto che il pignolo sta comunicando con i vignaioli in vigna e quindi sì, il pignolo sta pescando i produttori, un po' come mi ha pescato anche. Ci potrebbe essere qui in Friuli una maggiore collaborazione tra chi coltiva il pignolo? Sì, tutti diranno subito che non ci sono i numeri, ma il pignolo non è un prodotto numerico, è un prodotto simbolico. Potrebbe, secondo lei, avere più spazio, maggiore diffusione? Assolutamente sì. Tutti i componenti, quando si parla dell'uva e poi durante la vinificazione per un rosso evolutivo di grande classe, il pignolo ha. Quindi, avendo questa struttura naturale, non ho un dubbio che il suo momento sta per arrivare. Un momento che sta per arrivare anche nel mondo anglosassone a cui lei si rivolge, che naturalmente ha molto interesse per i vini italiani e anche per i vini più rari. Particolarmente per i vini rossi, con il clima, le temperature, noi siamo più abituati ai vini rossi che ai bianchi, anche perché è più freddo. Direi che siamo un po' stufati con l'offerta che esiste per quanto riguarda i rossi, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. I rossi, gli autoctoni italiani, sicuramente hanno creato uno spazio, il pignolo. Ben Lido, lei ha detto di aver imparato in questi anni studiando il pignolo anche molto del legame del Friuli con la terra, con i suoi vitigni, così? Tutto è collegato. il pignolo sì, mi ha abbracciato con convinzione. Gli ultimi 5 anni, se ho pensato all'inizio che sto guidando, ho capito velocemente che guidava il pignolo. Ho semplicemente seguito. E questo mi vedo come il messaggero e il libro come il seme, e in questo momento stiamo ritornando in campo, il campo comunicativo di piantare questo seme. Vedremo quello che crescerà. L'alternanza delle colture nella agricoltura biologica anche in serra o tunnel dove introdurre piante che aiutano a controllare le malerbe. Insomma, in agricoltura più si mescola, meglio è, ci dice Cristina Micheloni. Quando si parla di agroecologia, di equilibrio ecologico, di servizi ecosistemici, le immagini che si affacciano alla nostra mente sono quelle di un campo di patate, di un frutteto, di una distesa di cereali con evidente infrastruttura ecologica costituita da siepi, benché vada di un vigneto in collina dove ancora si mantengono qualche muretto a secco e qualche albero. Però anche in un sistema relativamente chiuso e intensivo come una serra o un tunnel dedicati alla produzione di ortaggi, valgono e contano, anche in termini di euro, le regole dell'ecologia. Infatti, anche solo il campate delle serre e diversificare le produzioni fa rima con la prevenzione di patogeni, parassiti e malerbe. Ecco dunque che in agricoltura biologica, anche in serra, è obbligatoria e imprescindibile la rotazione delle colture, alternando le solanacee, le cucurbitacee, non solo con le composite come le insalate, i radicchi e le cicorie, ma anche con dei cereali e delle leguminose. Visto il costo del metro quadro dentro le serre, ciò può anche sembrare un doloroso spreco, ma conti fatti su qualche anno di produzione, l'effetto sul suolo e sulla salute delle piante si compensa, sotto forma di produzioni migliori in quantità e qualità, meno interventi e terreno che anno dopo anno, anche nelle difficili condizioni indoor, incrementa la propria fertilità e con essa la capacità di produrre bene e tanto. Vale la pena però affinare ancora di più le tecniche e pensare a vere e proprie colture di servizio come sovescio, quindi su tutta la superficie coperta, ovviamente nei periodi in cui non ci sono le colture, oppure come fasce inerbite fiorite alternate alle colture e presenti in contemporanea. Ma vediamo qualche esempio di colture di servizio che ben serve l'orticoltura in tunnel. Per esempio, la crotalella leguminosa che ben sopporta il caldo e il secco e si sviluppa velocemente, apporta azoto, repelle i nematodi, e il miglio perlato, un cereale a rapidissima crescita, con un'azione soppressiva nei confronti dei patogeni terricoli ed estremamente competitivo verso le malerbe. Il rafano, un vero e proprio biofumigante, in grado anche di attrarre i pronubi, repellere i nematodi e competere con le infestanti. Come al solito, più si mescolano specie diverse, meglio è, e nel caso delle strisce fiorite si può davvero esagerare, includendo anche specie a fiore che prolunghino e diversificano la fioritura. Includere anche le cosiddette piante banca, dove il capitale depositato è costituito dal cibo degli insetti utili generalisti, quelli dalla dieta un po' meno selettiva, come i parassiti degli afidi, è una saggia operazione finanziaria. Se c'è lo spazio per un sovescio fra le colture principali è più semplice, altrimenti nel caso delle fasce inerbite, distribuire le aree di servizio ecologico andando a usare un 2-3% della superficie. In tutti i casi è un investimento a zero rischio e altissima redditività. Anche se il vino viene prodotto da millenni, non si tratta affatto di un processo tecnologico semplice, ci spiega perché Roberto Zironi. La vinificazione, in una moderna definizione, è il processo biotecnologico attraverso il quale la materia prima, l'uva, viene trasformata in vino. Quindi nella produzione del vino avvengono sia interventi di organismi viventi, microrganismi, che interventi umani, tecnologici, che tendono a guidare, incanalare, eventualmente interrompere i processi naturali. Anche perché le finalità dell'uomo non sono quelle dei microrganismi. Noi dobbiamo produrre un vino con determinate caratteristiche qualitative. Il microrganismo vuole vivere utilizzando l'energia degli zuccheri presenti nel succo d'uva. Quindi l'uomo deve organizzare la vinificazione per convincere tecnologicamente il microrganismo a fare delle azioni positive, bloccando quelle che sono le possibili azioni negative. In più, una terza componente è la variabilità della materia prima, che è condizionata chiaramente dall'andamento climatico durante la maturazione dell'uva. Secondo una classica semplificazione, i processi di vinificazione si possono raggruppare in due gruppi, la vinificazione in rosso e la vinificazione in bianco. Cosa vuol dire vinificare in rosso? Vuol dire vinificare con macerazione, cioè la presenza durante la fermentazione delle parti solide, delle bucce dell'uva, che vengono estratte prima dall'acqua, poi dall'alcol, agendo magari anche sul fattore temperatura, per far passare in soluzione le sostanze utili presenti nella buccia. in primis le componenti coloranti, ad esempio per la produzione dei vini rossi. Ma questo non è specifico solo per la produzione dei vini rossi. Possiamo avere la macerazione anche sulle uve bianche, ad esempio nella produzione di vini molto importanti in questa regione e nelle aree limitrofe, che sono quelli che vengono denominati gli orange wine. Nella vinificazione in bianco, invece, la fermentazione avviene a carico dei soli succhi della polpa. Questo vuol dire che in una fase più o meno rapida, più o meno collegata temporalmente con la fermentazione, le parti solide vengono separate, ma in taluni casi non prima di aver operato una macerazione a temperature controllate, soltanto in solvente acquoso, per estrarre dalla buccia dei componenti utili, ad esempio i precursori aromatici. Poi abbiamo infine l'utilizzazione di questa tecnologia per produrre dei vini particolari anche a partire da uva bacca rossa, ad esempio basi spumanti definite Blanc de Noir o, ad esempio, una delle possibilità per produrre i vini rosati. Appartengono alle solanacee e sono onnipresenti in cucina: i pomodori dalle mille virtù, ricchi di vitamina C, sali minerali, fibre, antiossidanti, sono immancabili nell'orto. Sara Bosco ci consiglia come coltivarli. Questo ortaggio può essere coltivato in vaso, in pieno campo, ma anche in tunnel freddo. Il terreno ottimale per i pomodori deve essere drenante, in quanto gli stagni idrici potrebbero causare l'insorgenza di malattie, è ricco di nutrienti, in quanto è una pianta abbastanza esigente. È importante che la concimazione di fondo con concime organico sia abbondante, in modo da garantirne il nutrimento nel corso della coltivazione. La semina viene effettuata in semenzaio a marzo, mentre il trapianto può essere eseguito in questi mesi, tra aprile, nel caso di tunnel, e maggio per il pieno campo. Per la gestione di questo ortaggio è fondamentale la messa a dimora dei pali di sostegno che garantiscano alla pianta di restare in posizione verticale e ben soleggiata. Il pomodoro è una pianta laboriosa in quanto richiede anche la potatura dei germogli ascellari o femminelle che si formano sull'asse centrale e dei succhioni che si originano alla base della plantula. Questi germogli vanno tolti in quanto vanno a togliere del nutrimento alla pianta che andrà a produrre meno frutti e di minori dimensioni. Inoltre, una volta raggiunta l'altezza desiderata, si può prevedere anche la cimatura dell'asse centrale in modo da contenerne le dimensioni. In vaso la coltivazione è la medesima. L'unico accorgimento che si può tenere è quello di scegliere delle varietà a bacca piccola per la maggior facilità di gestione. Ci sono diverse malattie e parassiti che possono colpire questo ortaggio, in particolare degli agenti fungini, che spesso sono favoriti dall'umidità che si crea nel caso di coltivazioni troppo fitte. In commercio ci sono svariate tipologie, sia da consumo fresco che da trasformazione, e quest'ultimi non prevedono la struttura in sostegno. Fa tirare il fiato anche ai morti il frico friulano, lo si legge in una delle prime citazioni di questa amatissima pietanza di cui ci parla Adriano Del Fabbro. L'attribuzione della prima citazione del frico al maestro Martino da Como, cuoco del patriarca di Aquileia e vissuto nel 400, ha poca solidità storica. Sono assai più recenti i documenti veri dove si rinviene l'uso della parola frico. Il poeta udinese Tony Broglie, durante la sua stagione letteraria, diede alle stampe anche alcuni almanacchi e lunari. In quello del 1846 pubblica un testo in friulano dal titolo Academie des Massaris in quatri chiams, dove usa i termini fricò e fricoz. Nel lunario del 1856, nel suo componimento intitolato Gateide, utilizza di nuovo le parole frico e fricò. Giuseppe Rupil era di Prato Carnico. Nel 1926 pubblicò un componimento dal titolo Nons di certa pietanzas che usava mangià una volta tal chianal da Val Pesarina, nel quale si può leggere Mesta quinciada e poros eons biei, quasai chiarzons da fadre chai chiavei, polenta dura e chiuc di quel salat, frico calfasa i muars tiralu flat. Quest'ultima riga venne ripresa poi nel 1935 dal vocabolario friulano Pirona per corredare la spiegazione della parola frico. Descrivendo la colazione contadina tradizionale nel 1951, l'arteniese Egidio Madussi ricorda pure il consumo di un tic di frico culacivole. A Venezia nel 1963 Giuseppina Antonini Perusini manda alle stampe il suo Mangiar Friulano, un libro diventato un punto di riferimento per la storia della cucina e della gastronomia friulana, basato su ricettari nobiliari 7-800. 10 anni dopo il libro viene ampliato e ripubblicato da Franco Angeli con il titolo di Mangiare e bere friulano. Nei suoi testi la contessa della Rocca Bernarda raccoglie 2 sole ricette di Frico, una delle quali proveniente dal borgo di Pofabro in provincia di Pordenone. L'enciclopedia monografica del Friuli Venezia Giulia nel 1974 dedica un corposo capitolo del secondo volume all'alimentazione, la cucina e i vini del Friuli Venezia Giulia. Scrivendo del Frico, oltre alla ricetta di Pofabro ripresa dalla pubblicazione dell'Antonini Perusini, vengono riportate altre 3 ricette. Per conto dell'Istituto Nazionale della Nutrizione di Roma nel 1965, il dottor Carlo Dalcer realizzò uno studio dal titolo Tradizioni alimentari in alcuni paesi dell'arco alpino orientale. Il riferimento alla carne e agli altri borghi friulani a ridosso delle Alpi è esplicito, infatti tra le principali abitudini alimentari di quell'area viene citato il consumo del frico, come un piatto tradizionale di tutta la fascia montana che resiste ai tempi. Poi sottolinea pure un particolare interessante e curioso. Esso può essere fatto con aggiunta di verdure varie, cipolla, patate fritte a parte in precedenza e pomodori. Proprio così, pomodori. La putizza al dragoncello è la ricetta di Roberto Zottar per questa domenica, variante delle 1000 che si trovano tra Friuli Venezia Giulia, Austria, Slovenia, ora protette anche da un disciplinare. Il 21 aprile scorso l'Unione Europea ha riconosciuto la slovenska putizza come specialità tradizionale garantita. Nel processo di esame della Comunità Europea solo l'Austria purtroppo ha presentato un'obiezione perché voleva proteggere i suoi produttori che realizzano dolci con un nome simile come potizze o putizze. La Commissione alla fine ha deciso che la produzione non sia geograficamente limitata, ma ha posto come condizione di autenticità la realizzazione in conformità ad un disciplinare approvato da Bruxelles. Quindi forse le nostre putizze sono salve. Memori del caso Tokai, speriamo che ci siano adesso iniziative da parte delle istituzioni italiane per proteggere le gubane delle valli del Natisone, le gubane di Cividale e di Gorizia, il Presnitz e il Rheindlin del Valcanale e, se servisse, siamo a disposizione. Le origini della putizza sono medievali, monastiche e le sue prime descrizioni si trovano già nel 1689 nell'opera di Ehre des Herzogtums Krain, la gloria del Ducato di Carniola, dello storico Janez Vajkal Valvasor. In analogia al termine gubana, che è ricollegabile al verbo sloveno gubati, increspare, far pieghe, con riferimento all'arrotolamento del dolce, anche il termine potizza, contrazione di potivizza, rollata, è un derivato dal verbo che significa arrotolare e avvolgere. La gubana delle valli del Natisone e la potizza sono strettamente imparentate e si differenziano sostanzialmente, nel caso sloveno, per la cottura in uno stampo e per una stesura sia del ripieno che dell'impasto più sottili e quindi il dolce al taglio ha più spire. La mia ricetta di oggi, che è di uno chef stellato di Cormons, non poteva che essere quella di una putizza, non con noci ma con dragoncello, la Pechtranova putizza, versione che è inclusa nel disciplinare di tutela europeo ed è un dolce caratteristico del Coglio, dove il dragoncello locale è molto più profumato dell'estragon francese. Per 3 putizze fate un impasto con 1 chilo di farina, 0,5 litro di latte, 60 grammi di lievito, 1,5 etti di zucchero, 2 etti di burro, 6 tuorli e pizzico di sale. Fate lievitare al raddoppio. Per il ripieno mescolate 1 chilo di ricotta asciutta con 3,5 etti di zucchero, vanillina, la scorza grattata di 3 limoni e 160 grammi di foglie di dragoncello tritate. Dividete l'impasto in 3 e stendete la pasta a 0,5 centimetro. Spalmate con uno strato sottile e uniforme di ripieno, arrotolate, date la forma ciambellata e sistemate in uno stampo. Fate rilievitare, pennellate d'uovo e cuocete a 160 gradi per 3/4 d'ora. Questa putizza non solo vi delizierà il parato, ma vi riempirà anche la casa di dolce profumo. Buon appetito! E come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli? Ce lo dice Amos D'Antoni. Mercato poco attivo, con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 26,50 e 26,70 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 23,10 e 23,40. L'orzo non è stato quotato in attesa del nuovo raccolto. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 10 euro e il frumento di 3,70 centesimi il quintale. Passando ai bovini e macello, si rilevano timidi accenni di ripresa nelle quotazioni, con le vacche fine carriera di prima qualità che vengono pagate a peso morto tra 2,40 e 2,70 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,70 e 2,40. Pure il mercato dei tè da ristallo registra dinamiche rivalutative dei prezzi nelle ultime settimane. L'andamento accerta che i blu belga maschi vengono pagati tra 5,90 e 6,40 euro al chilo IVA e compresa. I pezzati rossi tra 4,70 e 5,20, i frisoni tra 1,50 e 1,80 e i bruni tra 1,30 e 1,50. Anche nel comparto suinicolo continuano spunti di ripresa per i lattonzoli di 30 kg che vengono quotati franco partenza a 3,76 euro al chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono pagati a 1,33. Infine, nel settore degli avicunicoli si segnalano ancora accenni di pesantezza con prezzi diversificati. I poli a terra vengono pagati tra 1,10 e 1,12 euro al chilo IVA esclusa, le anatre tra 2,45 e 2,49, le faraone tra 2,47 e 2,57, i tacchini maschi tra 1,28 e 1,30, i conigli oltre 2 kg e mezzo in calo tra 1,68 e 1,74 e le uova da allevamenti a terra oltre 73 grammi a 16 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA, Arturo Puccillo, diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Possiamo ormai fare un bilancio meteorologico della prima metà del mese di maggio. È stato un periodo di marcata variabilità del tempo, con frequenti perturbazioni che in diversa misura hanno interessato il territorio. A queste si è sovrapposta l'instabilità atmosferica tipica di un mese in cui il sole è decisamente alto nel cielo e quindi capace di offrire riscaldamento sufficiente a originare rovesci temporali, specie sulla fascia prealpina. Sulle prealpi, infatti, le piogge registrate vanno dai 150 mm delle Carniche, più occidentali, a punti di 350 sulle Giulie. Sulle Alpi, invece, i cumulati sono stati tra 100 e 200 mm circa, mentre abbiamo registrato valori di 80-100 mm sull'alta pianura, 30-70 sulla bassa e sulla costa. Sul Carso si sono raggiunti locali valori di 130 mm. Poche sono state le giornate di sole pieno, tra cui ricordiamo il periodo tra l'8 e il 10 maggio, con temperature massime in pianura che hanno sfiorato i 25 gradi. La temperatura media, invece, è stata in genere di un grado e mezzo più bassa della norma. Un maggio quindi, per ora, che ricorda quelli di qualche decennio fa. Mese primaverile, instabile e ancora fresco. E non, come spesso negli ultimi 20 anni, anticipo d'estate, con temperature massime oltre i 30 gradi. Venendo alle previsioni, notiamo come persista per qualche giorno ancora il flusso di correnti occidentali a tratti perturbate, che domani determineranno piogge temporali più frequenti di mattina, poi locali anche di pomeriggio in un contesto però di maggiori schiarite. Le temperature non subiranno ancora variazioni di rilievo. Martedì e mercoledì, pur in presenza di maggior soleggiamento, insisterà ancora una certa instabilità pomeridiana, con qualche temporale sulle zone interne, favorito anche dal riscaldamento previsto. Le massime in pianura, infatti, saliranno oltre i 20 gradi. Il rialzo termico, tuttavia, si arresterà anche a causa del permanere di una certa instabilità pomeridiana sulla zona montana, pur se in misura minore rispetto ai giorni precedenti. Da venerdì e nel prossimo fine settimana si profila una nuova incursione del flusso atlantico con annessi fronti e possibili piogge. Data l'incertezza, vi invitiamo a seguire con frequenza gli aggiornamenti quotidiani a cura di Osmer Arpa sulla rete regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. A San Bernardino al fluris il pane vin, ovvero il giorno di San Bernardino, il 20 maggio, fiorisce il rumex acetosa, pianta molto gradita per il suo sapore e acidulo. Coordinamento tecnico di Daniela Postu, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.